fare tutta la... Ristoradio Convento, per raccontarsi, per raccontare. E ci siamo, Ristorato e Convento, diretta del sabato sera, sono le 2.01 in compagnia di Mattia, giusto? Giusto, giusto. Che tu che ruolo hai nella serata? In sé sono il futuro sposo di Marika Brancato e quindi ecco, sto festeggiando mio Dio al celibato. Oh, grandissimo, grandissimo. Se, avete fatto un sacco di strada, come avete fatto a trovarci? Esatto, e senti, non lo so come il mio testimone ha deciso di venire qua, anche perché è stata una sorpresa per me. Si è presentato questa mattina con un fenicottero sul tetto della sua Skoda Rapid. Tipico. Vieni e ti portiamo a far festa, ecco. E tu, basta, non sapevi altro? Non sapevo altro. Ma non sapevi neanche che passavano a prenderti? Proprio... Sapevo qualcosina, perché tramite indizi, sotterfugi, ho capito che c'era qualcosa in ballo. Ah, ok. Però, ecco, niente più. A chi è che è scappata qualcosa? È scappata per caso a tuo nipote? Sì. No, alla mia sorella. Alla sorella? Anche a me all'inizio. Anche il nipote. Sì. Presentiamo il nipote che va con noi, come si chiama? Alex. Alex, il nipote, giusto? Nipote, esatto. Barra fratellino. Quindi non siete riusciti a tenere tutto nascosto? No, in sé io ho cercato, perché mi sono fermato a parlare all'inizio, però poi ci ha pensato mia zia, quindi ha svelato tutto. Quindi si è avuto fregata la zia. Però il fenicottero sulla macchina non dava nell'occhio, lui no, non, immagino che non ha capito niente quando ha visto. Esatto, sì. Stamattina alle 7:30 e dico: che cazzo fa questo tetto? Cosa ci farà mai? E cosa avete fatto? Siete partiti? Hai detto: boh, dove andiamo? Che e fate? Alla fine ho chiesto un po' tutto al gruppo che mi accompagna e mi fanno: senti, lasciati trasportare da questa avventura e vedrai. Dall'emozione. E racconta, dove abbiamo portato? Come è andata la mattinata? Allora, la mattinata è partita da un parcheggio da un grande centro commerciale di Biasca, nel nostro comune. Ok. E poi abbiamo fatto tutta la strada fino a scendere fino a Gardaland, dove abbiamo passato tutta la giornata. Siete stati a Gardaland? Sì. Vestiti così come siete adesso? Esatto, sì. Ah, proprio bello questo. Cos'è il pigiama quello che è su? Cos'è? È un pigiama. Onestamente avevo anche il sotto, ma sinceramente faceva troppo caldo. Ma però oggi a Gardaland l'hai tenuto? Per i primi tre quarti d'ora sì, poi l'ho tolto. È stato bravo. Abbastanza caldo. Il nipote ha detto: beate pietà mio zio, ecco, giusto. E quindi sì. E dopo avete fatto già te Gardana e siete venuti qua. E poi siamo venuti qua, sempre tramite il mio testimone, e penso che ho trovato questo posto, non so come. È incredibile, vero? È una grande figata. Hai visto? Te lo consiglio a tutto il mondo. Grande, non è di parte, eh. No. Dillo che stai consigliando liberamente, non ti abbiamo obbligato, non mai obbligato. Niente, proprio... Dimmi tre cose belle di questo posto. Ma sinceramente la... Prima di tutto la patata. Ecco, immaginavo che partiva subito impicchiata, esatto, immaginavo. E poi quello che concerne anche un po' l'ambiente, perché comunque è ben strutturato. Questo favoloso angolo di radio dove ci mettete in diretta è fantastico. È spettacolare, no? Così tutte le persone che ci stanno ascoltando in questo momento ti stanno conoscendo e sanno che tu sei qua. Esatto. E stai festeggiando con tuo nipote, ma soprattutto con una persona importante, giusto? Esatto, un amico importantissimo, me lo presenti tu, l'amico importantissimo? Esatto, lui è praticamente il mio cognato. Sì. È un grandissimo uomo, dove lo considero veramente una persona terra a terra, come diciamo da noi. Sì. Ma che comunque ha fatto un record al mondo, non da niente, sul lago Salato a Bonneville, dove ha superato il record al mondo su moto. Su moto, ma chiediamoglielo a lui. Ecco, lui è il nostro Tiziano, l'uomo record, giusto Tiziano? Sei tu? Sì, sono allora io. Ci racconti esattamente, perché gli amici a casa come me magari non sanno bene che tipo di attività fai, ce la racconti com'è? Allora, spiega. Normale, faccio il macellaio. Ecco, attenzione, normalmente faccio il macellaio, ok. Poi? Forse, non so se chiamarlo hobby, ma quello che è, sono andato a Bonneville a cercare di battere il record del mondo di velocità e ha fatto un giro, ha detto: vado a Bonneville un attimo, scusate, mi assento, vado nel retro, no, vado a Bonneville, che Bonneville è in? Nello Utah. Nevada. Ecco, ricordiamo cos'è un lago salato, perché molti non lo sanno, sì. Alcuni. È un lago salato di quasi 200 km quadrati di puro deserto salato. Ok. Quindi è quello che si vede, io dico nei film, cioè quelle distese di terra arida, tipo, giusto? Sì, hanno fatto anche un film lì, La Grande Sfida. La Grande Sfida? Esattamente. Quindi chi va a vedere questo film capisce quello che hai fatto tu. Esattamente. E le moto, la moto com'è? Una moto particolare, no? La moto sì, l'abbiamo costruita noi da zero. E l'avete portata là, dalla Svizzera? Sì, ah? Via nave. E tu eri sulla, sulla moto, anche sulla nave? Eri fermo lì per sicurezza? No? La voglia c'era, però non ci hanno lasciato. Quello è vostro? Sì, questo è vo- testimone. Tra l'altro lo vedo che cosa fa? Ecco, gli amici a casa non possono vedere quello che sta facendo, ma l'interpretazione potrebbe sembrare... vuole un gelato? Sembrerebbe che vorrebbe un gelato, un calippo vorrebbe, sembra. Okay. Lo salutiamo un attimo, come si chiama? Che fa? Lui è appunto il migliore, il mio migliore amico, Davide Foglio, è in grande forma, vedo. Grande forma, diciamo. Ecco, poi dai, facciamo un elenco degli amici, intanto che abbiamo purtroppo spezzato la sua intervista, però è quando interviene il Foglio, ecco. Ecco, così. Come lo diciamo noi, lo denominiamo Erblatt, come in tedesco, Blatt, Foglio. Eh? Erblatt, quindi è grandissimo, è il mio migliore amico da una vita. Poi ho qui assieme Pagliafilippo, che appunto abbiamo fatto gli studi all'Università di Friburgo assieme, dove abbiamo convissuto appunto 4 anni assieme, intensi, di festa soprattutto. Esatto, è importante quello. Poi c'è appunto Paolo Signorelli, che in questo momento è in un furgone a dormire perché ha mal di testa. Perfetto, fantastico. Ma dopo c'è il mitico Cozzaglio, Cristian Cozzaglio. Il Cristian, sono tutti bravi a fare i gesti, eh? Anche questo, tra l'altro, vedi, è un gesto tipico. Una cornamusa? Ah, ecco, abbiamo capito che tutti ce l'hanno con questo calippo, mi sembra. Con questo calippo, sì. Però ecco, è un grandissimo amico, abbiamo fatto tutto quello che è l'apprendistato, da noi si chiama apprendistato, quello che quando si apprende un mestiere. Uh-huh. Abbiamo vissuto 3-4 anni insieme fantastici, dove abbiamo convissuto, appunto, abbiamo partagé, come dire, condiviso dei momenti fantastici, e per me è fondamentale che lui ci sia. Ci sono ancora tanti gli amici o li abbiamo un po' nominati tutti? O... li abbiamo nominati tutti. No, perché io ho paura che spuntino, è quello, allora, no. Allora mi spavento. E dico, abbiamo già trovato, insomma, abbiamo parlato già dei pezzi forti qua. Esatto. Ma devo tornare su Tiziano, perché stava spiegando che ha costruito questa moto particolare, che sono, ma sono quelle lunghe, sono più lunghe del solito o no? O no, me le ricordo male, quelle con le ruote grosse dietro, no? No, no. Una moto abbastanza particolare, è più allungata, poi il motore Ram Ducati 999S turbo. Sì? Con calcola che c'era in base, era 200 kg per 240 cavalli. Uh-huh. Un bel po' di cavalli. Ma spiegami un attimo, cioè quando tu parti, siccome hai fatto un record di velocità, devi partire molto veloce, no? Quindi sgommano le moto quando... no? No, no, non sgommano. Per fortuna c'era un vecchietto, sinceramente, là. C'era un anziano? Sì. Hai vestito l'anziano con la moto? No, no, no. Era un anziano normale. Sì? Ok. Ok. E poi mi ha dato un consiglio, mi fa: le prime 3 marce dalle piano e poi comincia a gasare dopo i 200, che... Ah, dopo i 200 allora sì, comincia ad accelerare. Sì, sì, che dopo tiene. Perfetto, ecco. Ok, nel frattempo facciamo anche un selfie, già che ci siamo. Ecco. Ci sta il selfie, perfetto. Il selfie in diretta, bellissimo. Alla fine... Cioè, è vostro questo? Vuole un calippo anche lui? È vostro? Ah, sì. Oh, questo che è il gelataio del Ticino? No, no, qua l'ho conosciuto stasera. Ah, ok. È, è un grande anche lui, perfetto. Va bene, ok, quindi a 200 allora ho iniziato ad accelerare, all'inizio sì. Era una partenza sì, soft. Alla prima ho partito e ho capito che qualcosa non andava, ma sono arrivato a 6 km orari in meno del record. Ah, ma così a pelle. Ok. Poi per fortuna è arrivato il vecchietto. E ti ha spiegato come fare? Sì, sì, il saggio di turno. Fantastico. C'è un passante, tra l'altro, passava lì nel lago salato dello Utah. Non sapevo cosa fare. Col cane, tra l'altro, immagino. Ecco, hai detto, secondo me, tu hai dato retta al vecchietto magico? Eh sì. E dopo... e sei partito giusto, hai 200, e dopo sei arrivato a che velocità massima? Era una Naked che è nuda senza carini a 270 km orari, che corrisponde sull'asfalto a 430 km orari. Però, e in quel momento cosa provi? Cosa si prova? In quel momento spegni il cervello, boh. Non pensi a nulla? No. Non hai paura? Pensi a tutto e non pensi a niente. Hai più paura prima di partire, giusto? Una volta che sei partito non pensi a niente? Esattamente. E vai. Però non capisci se, che stai facendo bene. Lo capisci o non lo capisci? Lo capisci. Perché sei solo a fare questa prova, no? L'ho provata tre volte e dico, stavolta sono andato bene. L'altra volta stavolta manca qualcosa e la terza dico, stavolta sono andato veramente bene. Ah, quindi te lo senti, lo percepisci. Lo poi quando arrivi che ti fermi, cioè per fermarti già ce ne vuole, giusto? Sì, sì. No, perché se rilasci troppo veloce la moto si stinca la ruota dietro e ti capotti. Ok. E quindi piano piano tutta una cosa. Perché come ci vuole fegato a fare sta roba? In corrispondenza è come andare a. Sì, come andare sulla neve. Ah. Non c'è grip. Perfetto. Tu sei sempre in drift. Caspita. Bravo, vedi che il nipote traduce, grande nipote. Ma solo per gli amici che ci stanno ascoltando, un video su YouTube, qualcosa, dov'è che si può vedere la tua performance? Io mi hanno fatto un documentario anche sulla televisione svizzera. Sì. Si va su Blegno Utah. Cos'è? Puoi dirlo piano che almeno. Blegno. Sì, Blegno. Blegno, come dire legno con la B davanti? Esattamente. Blegno. B-L-E-I-E-N-O. Blegno. Blegno. Utah. Utah è lo stato? Sì. E c'è proprio il documentario come hanno fatto con. Su Tiziano, il cognome è Tiziano? Vescovi. Tiziano Vescovi, campione mondiale di velocità. E c'era Giacomo Agostini a presentarmi la serata. Fantastico, ragazzi. Oh, cioè. Non da niente. È un record, veramente un record mondiale. Ciao a tutti. Dimmi cosa rischia uno che fa questa. Rischi anche la vita volendo? Sì, sì. Non volendo, tra l'altro. Non volendo, ma. Però. E quindi è una cosa importante, cavolo. Bravo. Calcola che quando ero là. C'è qualche amico? No. Scusa. Vai. Quando ero là, uno ha preso fuoco. Ah, però? Sì, perché ormai sono tutti prototipi, no? Uno si è spaccato un tubo della benzina, ha preso fuoco, ma è andata bene, anche lì. Ah, ok, non è successo niente. No, vabbè. No. Va bene. E un altro, in rilascio, ha rilasciato troppo veloce il gas e si è intraversato. Ed è caduto. Solo una clavicola, tranquillo. Dai, buono. Comunque, oltre su YouTube lo si può trovare su Facebook, sulla pagina KR Racing Team, che è il suo. Bravo, dilla piano ancora scandita. La pagina. KR Racing Team. Ok, perfetto. Lo si può trovare su Facebook, è una pagina dove ha pubblicato video e post su quando era là. E consiglio di seguirla. Bravo, è più informato di me. Bravo nipote, che è il tuo manager anche, vedo. Ok, è anche il manager del nostro sposo Mattia. Ecco, ci pensa tutto il nipote, eh? Va bene. Nipote, vuoi fare una dedica tu a nome di Mattia? O cioè sei il suo portavoce ufficiale? O facciamo dire qualcosa a Mattia per la sua bella? No, in sé io sono il più giovane del gruppo, quindi non so poco e niente di quello che ha fatto, quindi lasciare la parola a mio zio. Ecco, una dedica alla tua futura sposa, dai, dato che lei è in Svizzera, no, adesso in questo momento? Esatto. Tra l'altro anche lei sta festeggiando il suo giubileo attualmente, e quindi niente, per me non è solo la mia futura moglie, ma il tutto per me. Perfetto, salutala, ma come si chiama? Marika. Marika? Esatto. Dai, salutiamola così chiudiamo la nostra intervista. Niente, ti saluto, stai tranquilla che questa festa sta andando liscia come l'olio, come si vuol dire. Ora che l'intervista è registrata, mi torna indietro con la registrazione alla prima caratteristica bella di questo locale, Marika, che tu hai menzionato. Vuoi ripetermela così non fa fatica andare indietro a cercare il perché ti è piaciuto questo locale? Censura. Per la patata. Fantastico, grande Mattia. Allora, salutiamo tutti gli amici, parti, vai, nipote, come ti chiami? Alex. Saluta tutti. Ciao a tutti. Poi? ciao a tutti da Mattia Rodoni, vi auguro una buona serata, ecco. Ciao, io sono Tiz, per tutti ormai, Tiziano Vescovi, e buona serata a tutti, grazie. Tiziano Vescovi, campione mondiale, eh? Ciao ragazzi, ciao, saluto la Svizzera, ciao.